GR Europa. E a Bruxelles c'è Sergio Nava, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Bruxelles, dove tra nemmeno un'ora inizierà il vertice europeo dedicato in primis alla lotta alla disoccupazione giovanile. La notizia della giornata però è l'accordo definitivo sul bilancio 2014-2020 raggiunto questa mattina tra Stati membri, Europarlamento e Commissione europea. Poco fa Radio 24 ha intercettato il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, a lui abbiamo chiesto un commento sull'intesa, sentiamo subito cosa ci ha detto. I'm not satisfied, Non sono soddisfatto, ho semplicemente negoziato un accordo. Siamo a metà strada, dice Schulz, tra quanto il Parlamento chiedeva e quanto il Consiglio europeo era preparato a concedere. Questo compromesso è meno di quanto abbiamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo. Questa, dice Schulz, insomma, è l'intesa. Più soddisfatto invece il capogruppo PDL e relatore del bilancio Giovanni La Via, che abbiamo raggiunto sempre a Bruxelles. Sentiamo. Sostanzialmente la battaglia del Parlamento è stata una battaglia positiva. Il fatto di aver detto no questa settimana a un accordo a ribasso che prevedeva poca flessibilità ci ha portato a ottenere qualcosa di più. E credo che abbiamo ottenuto più Europa, perché abbiamo ottenuto che le risorse destinate all'Europa, agli Stati membri, possano essere utilizzate pienamente, mentre invece con poca flessibilità ne avremmo perse il primo, il secondo e il terzo anno. Invece con questo nuovo sistema di flessibilità nei primi 3 anni dovremmo avere flessibilità piena, cioè le risorse non utilizzate si potranno spostare all'anno successivo integralmente, mentre negli ultimi 3 anni avremo un tetto di spesa trasferibile. Questo significa che avremo dei limiti, ma in ogni caso è un grosso passo in avanti. Nei fatti, quello che accadeva prima, se non si spendevano i soldi tornavano indietro, adesso c'è la possibilità di poter utilizzare pienamente questi 960 miliardi. Certo, si tratta però di 960 miliardi di impegni e solamente 908 di pagamenti. Questo è valido soprattutto per i pagamenti, perché le risorse che non venivano pagate in un anno, perché gli Stati membri sono più lenti nella implementazione delle politiche e talvolta chiedono di trasferire soldi da un anno all'altro, evidentemente con questo nuovo sistema li possiamo trasporre e li potremo utilizzare integralmente. Soddisfatto per l'accordo sul bilancio anche l'europarlamentare PD Sergio Cofferati, membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali, ma il vero problema dell'Europa è la crescita. Solo stimolando la crescita, dice, si creerà occupazione. Sentiamo allora Cofferati al microfono di Valeria De Rosa. Io credo che sia quello della crescita il problema principale per l'Europa e che dunque l'Unione debba adottare politiche in grado di far crescere le economie dei singoli paesi, perché soltanto dalla crescita può derivare la creazione di nuovi posti di lavoro. Immaginare che siano sufficienti degli incentivi alle assunzioni per poter avere degli sbocchi positivi per i giovani è pura illusione. Bisogna concentrarsi sugli investimenti, bisogna selezionare questi investimenti e bisogna reperire risorse per gli investimenti, a partire dalla tassa sulle transazioni finanziarie, per arrivare fino ad una lotta vera all'elusione e all'evasione fiscale, cosa che l'Europa non sta facendo. Quello che viene chiamato oggi garanzia giovani, peraltro con una postazione di risorse modestissime, si parla di 6 miliardi spalmati in 7 anni per 27 paesi, non aiuterà la crescita dell'occupazione giovanile, è soltanto, cosa di per sé utile ma per nulla risolutiva, un nuovo strumento, un nuovo ammortizzatore sociale destinato a creare un ponte tra la fine degli studi e il non lavoro, oppure la perdita del lavoro e una collocazione successiva. E grazie allora Sergio Nava, vertice dicevamo attesissimo. Allora ci risentiremo da Bruxelles con GR24. L'Europa torna invece come sempre domani alle 13.15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.